GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ci vorrà qualche giorno perché la montagna si assesti dopo le piogge forti e prolungate dei giorni scorsi. Le frane storiche hanno accelerato, se ne sono create di nuove, come quella sulla A23 tra Moggio Udinese e Amaro. A monte dell'autostrada si lavora per mettere in sicurezza il pendio da cui ieri mattina si era staccato un grosso masso. Primo giorno di nuova zona a traffico limitato e nuova area pedonale a Udine. Un'operazione voluta per facilitare i commercianti e rendere più vivibile il cuore della città. Ma non sono mancate le proteste. Per la prima volta Trieste Airport è collegato con Berlino. Il volo della Ryanair è praticamente esaurito, sia in arrivo che in partenza. Pieni anche gli altri nuovi collegamenti del colosso irlandese per Siviglia, Dublino, Cracovia, Parigi. Trentenne libanese arrestato per stalking a Trieste. In piazza Sant'Antonio ha aggredito a morsi la donna da cui è ossessionato e ha preso a calci la sua auto. La perseguitava da anni, ora è in carcere. Quasi 50.000 lavoratori smart working in Friuli Venezia Giulia. Da oggi si torna alle regole pre-Covid, scaduta la proroga per i genitori di figli sotto i 14 anni e i lavoratori fragili. Entro aprile il bando di idee per la riqualificazione del quartiere fieristico di Gorizia, nuove prospettive per un'area inutilizzata ormai da 15 anni. Una nuova stanza per i trattamenti chemioterapici all'ospedale San Polo a Monfalcone, colori e arredi per creare un'atmosfera accogliente. Un nuovo tipo di monitoraggio, quello attraverso le specie cosiddette ombrello, che permette di monitorarne simultaneamente anche altre, sarà sperimentato per la prima volta in Italia e in Europa nel Parco Naturale delle Prealpi Giulie per controllare i mammiferi. L'iniziativa è dell'Università di Trieste. Ben ritrovati da Lara Zani e Francesca Vigori. Sulla strada sopra la A23 si lavora per la messa in sicurezza dopo la frana di ieri. Oggi pomeriggio in prefettura Udine il punto della situazione. Intanto il geologo Andrea Mocchiutti ci spiega cosa è accaduto in queste ore e qual è stato l'impatto sulle frane in una regione soggetta a rischio idrogeologico. Ci sono state negli ultimi giorni delle piogge intense e anche molto prolungate che hanno anche sciolto la neve in alta quota fino a circa 2000 metri, quindi alla pioggia si è sommato anche lo scioglimento della neve. Questo ha fatto sì che si sono ingrossati un po' tutto il reticolo idrografico. Chiaramente le frane risentono dell'acqua perché l'acqua è il motore principale delle frane e quindi le frane conosciute si stanno muovendo, continuano a muoversi e si sono anche sviluppate situazioni nuove tipo quella che è avvenuta sull'autostrada ieri proprio con il crollo di massi. È una situazione che non si risolve in poche ore, ci vogliono anche 2 o 3 giorni per vedere gli effetti di queste piogge? Sì, perché la montagna e le falde sono veramente cariche e di conseguenza per smaltire tutta questa grande quantità di acqua ci vorranno dei giorni. E anche la montagna ha bisogno di assestarsi in un certo senso, per cui anche ci sono situazioni di movimento che si vede non proprio nel momento della pioggia ma proprio nei giorni successivi. Ne è un esempio proprio anche la frana di Clauzetto, che si è mossa di 41 centimetri nelle ultime 24 ore e che abbiamo misurato pochi giorni fa, ha percorso circa 36 metri dal suo esordio in novembre. La scossa di terremoto può aver influito? Sì, nel senso che è stata una scossa importante e soprattutto per quanto riguarda gli ammassi rocciosi che sono già instabili, è la classica goccia che può far traboccare il vaso, quindi sono tutte quelle situazioni di instabilità, quindi accelerazioni che danno instabilità a situazioni già al limite, per cui il connubio piogge, attività sismica e condizioni anche già molto fratturate delle nostre rocce, delle nostre montagne, fanno sì che noi di fatto abbiamo una regione che è estremamente sensibile a tutti questi fenomeni. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Mattinata di informazione a Udine per l'entrata in vigore della nuova ZTL. Qualche disagio per corrieri e carico e scarico, debutto anche per il mercato nella nuova collocazione in Piazza Duomo. Da questa mattina a Udine è cominciata la sperimentazione per la zona a traffico limitato e per le aree pedonali. La polizia locale presidia i punti dove sono state previste le modifiche alla viabilità. In questa prima fase sarà proprio il personale in divisa a verificare i pass e a fornire tutte le informazioni del caso sulle due aree distinte, una pedonale e una a traffico limitato. Una mattina che è trascorsa tranquilla, complice la chiusura delle scuole che riapriranno domani, ma tante le richieste alla polizia locale. Elisa Afro, polizia locale di Udine. Dove parcheggio? È la prima richiesta che viene fatta, dopodiché chiedono tutte le informazioni del caso, dove scaricare la modulistica per ottenere il permesso, come possono effettuare le operazioni di carico e scarico, e gli viene spiegato appunto che le operazioni vanno effettuate in ZTL e non più in area pedonale, e ovviamente chiedono quando arriverà il permesso cartaceo. Debutto anche per il mercato in Piazza Duomo per consentire l'avvio dei lavori in via 20 settembre. Ci sono state ulteriori modifiche alla viabilità tra via Poscolle Alta e Piazza 20 settembre. Il tratto di via Canciani dall'incrocio con via Poscolle a via Cavour è stato chiuso. Giornata è molto bella, promette bene. I primi clienti si sono visti, ci hanno trovato subito, ma io sono ottimista, pur sperando di tornare nella piazza di prima il più presto possibile. Per me è uguale. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. 188 in arrivo, altri 170 in partenza sono i passeggeri della prima giornata di voli Ryanair sulla nuova tratta Trieste-Berlino. Un collegamento atteso da molti, realizzato per la prima volta ora dopo la nuova partnership fra lo scalo del Friuli Venezia Giulia e la compagnia irlandese. Si incrociano in pista i velivoli Ryanair, è un via vai di voli perché ha preso ufficialmente il via oggi la base italiana di Ryanair a Trieste con il nuovo aeromobile di ultima generazione Boeing 737 Game Changer, acquistato proprio per questa operazione di rafforzare la presenza della compagnia irlandese nello scalo del Friuli Venezia Giulia, prima e unica regione ad assorbire l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco sui biglietti aerei. Ed è stato proprio il nuovo aeromobile a inaugurare per la prima volta nella storia la tratta Trieste-Berlino. Noi siamo con Marco Consalvo, amministratore delegato del Trieste Airport. Perché è una tratta così interessante? Abbiamo visto poco fa uscire le persone entusiaste, spesso perché hanno anche un lavoro che li fa volare tra Berlino e Trieste, prima magari dovevano andare a Venezia. Beh, la Germania è un mercato strategico sia per i cittadini sia per le imprese, quindi il Berlino siamo estremamente soddisfatti. È un mercato grande, noi abbiamo un collegamento, due voli al giorno con Francoforte, con Lufthansa. Questo Berlino ci apre altre prospettive sul mercato Germania, oltre al Monaco, che è un collegamento che dobbiamo assolutamente riprendere. Si è parlato anche tanto del Vienna, quando ci sarà questo collegamento con Vienna? Sul Vienna ci stiamo lavorando già da tempo, purtroppo quest'estate non riusciremo e quindi è in programma per l'estate 2025, prima non riusciamo. Questi primi voli, lei dice, purtroppo di fatto parte tutto dopo la Pasqua, se fosse partito prima sarebbe stato davvero un tutto esaurito. Certo, è chiaro, periodo pasquale è il massimo della mobilità e questi voli sono sostanzialmente partiti a Pasquetta in questa settimana qui, però in ogni caso sono belli pieni, il Berlino sono 181 passeggeri in arrivo e 170 in partenza. Ronchi dei regionali, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo aveva conosciuto per motivi di lavoro e da allora se lo vedeva comparire davanti inaspettatamente in molti luoghi che frequentava, spesso con atteggiamenti minacciosi. Fino a qualche giorno fa, quando l'uomo le ha morso una mano e ha preso a pugni la vettura all'interno della quale lei si trovava. La donna ha così sporto querela per comportamenti persecutori e per un 29enne di origine libanese è scattato l'arresto per stalking. Alcuni passanti hanno assistito alla scena nei pressi di Piazza Sant'Antonio a Trieste e lo hanno messo in fuga. Alla polizia la donna ha raccontato che il suo persecutore aveva tentato ripetutamente di salire sulla sua auto, di sottrarle il telefono e le chiavi dell'auto, poi le aveva morso una mano. Nuovamente, dopo essersi allontanato, l'aveva nuovamente minacciata telefonicamente. Presentando querela, la donna ha raccontato di aver conosciuto il libanese alcuni anni fa e che da allora aveva iniziato a incontrarlo in tutti i luoghi da lei frequentati, dove si mostrava sempre più geloso e possessivo. Alla decisione di interrompere i rapporti, lui aveva continuato a contattarla da numeri telefonici sempre diversi, minacciando di sfregiarla se si fosse rivolta alle forze dell'ordine. Ora è in carcere. Siamo al meteo, il cielo è variabile sulla regione, le temperature a Trieste, Pordenone 14 gradi, a Gorizia 15, a Udine 13, a Tolmezzo 11, a Tarvisio 10, a Forni di Sopra 9, a Piancavallo e a Sappada 5 gradi, sullo Zoncolano 3, sul Monte Lussari 2, a Lignano 15, a Grado 14. Vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per le prossime ore. Cielo variabile nelle ore centrali e nel pomeriggio, sarà probabile maggiore instabilità con rovesci e temporali sparsi, più probabili comunque sulle prealpi e sulla pianura. Sulla costa soffierà vento debole o moderato da sud-ovest, quota neve a 1300-1600 metri circa. Nonostante la diffusione crescente tra i lavoratori, sullo smart working si torna alle regole pre-Covid. Vediamo cosa cambia. Norme vecchie, forse non adeguate ai tempi. Smart working, si torna alle regole pre-Covid, salvo accordi individuali con il proprio datore di lavoro. Stop infatti alle procedure semplificate per i cosiddetti fragili, cioè i lavoratori affetti da patologie gravi e per i genitori di minori sotto i 14 anni. Come se la pandemia e il fenomeno successivo delle grandi dimissioni non fossero mai accaduti. Eppure il fenomeno era in crescita, 3,5 milioni di lavoratori a livello nazionale, tra i 40 e i 50 mila in regione. Nel privato da oggi l'accordo deve essere scritto e deve indicare la prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali. Si devono specificare gli strumenti utilizzati del lavoratore e devono essere regolati i tempi di riposo. Per le grandi aziende il lavoro da remoto rischia di diventare complicato. Per il momento per le big del settore IT e assicurativo in Friuli Venezia Giulia non cambierà niente, con la prevalenza del lavoro ibrido, ovvero la formula 4 più 1 o 3 più 2, nel senso di giorni in presenza rispetto a quelli di lavoro da casa. Nella pubblica amministrazione le decisioni potranno essere prese soltanto dai dirigenti e saranno diverse non solo da ente a ente, ma addirittura da ufficio a ufficio, con i lavoratori che recriminano una disparità di trattamento a volte evidente. Si torna quindi alle norme del 2017, norme che i sindacati, ma anche i datori, chiedono vengano riviste a livello nazionale. La Regione e l'Agenzia del Lavoro l'anno scorso hanno lanciato un vademecum proprio per raccogliere le esperienze di aziende e lavoratori per quello che riguarda il lavoro agile. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. A Gorizia si discute delle prospettive future del quartiere fieristico. Entro aprile il bando di idee per la riqualificazione di un'area inutilizzata ormai da 15 anni. La promessa è che entro il corrente mese di aprile sarà definito il concorso di idee per il recupero dell'area dell'ex fiera di Gorizia, inutilizzata ormai da una quindicina d'anni. Ad annunciarlo il presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti, insieme al sindaco del capoluogo isontino Rodolfo Ziberna, questa mattina in conferenza stampa. I costi di mantenimento del quartiere fieristico, oggi che è chiuso, ammontano a 100.000 euro annui. La qualificazione sarebbe volta dunque anche a rendere produttiva un'area che al momento risulta solo una spesa. Quattro i padiglioni dell'ex fiera, tutti costruiti tra il 73 e l'80, per una superficie coperta di oltre 6.500 metri quadrati, cui si aggiungono gli spazi esterni di 42.600 metri quadrati. Se in vista di Go 2025 a poter essere sfruttati saranno solo l'area esterna e uno dei quattro padiglioni, e non per appuntamenti di carattere pubblico ma per eventi privati come convegni e conferenze su invito, la sfida è comunque quella di non lasciarsi sfuggire la visibilità nazionale e internazionale garantita dalla capitale europea della cultura, un volano in grado di richiamare anche l'attenzione di possibili investitori interessati all'area. Il concorso di idee dovrebbe portare a una maggiore valorizzazione della storia e della cultura del territorio, auspica il sindaco di Berna. Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Si è arrampicato sul braccio meccanico della ruspa che avrebbe dovuto dar via ai lavori di demolizione dell'edificio che ospitava la bocciofila Pavan nel rione di San Giacomo a Trieste. Protagonista uno degli attivisti del Comitato Cittadino Insieme per San Giacomo, che si oppone all'abbattimento, sostenuto da alcune decine di cittadini che si erano radunati nei pressi del cantiere. Nella seconda metà di marzo il Comitato aveva già espresso contrarietà al progetto di demolizione dell'edificio, al cui posto dovrebbe sorgere un centro sportivo, tramite una diffida al comune di Trieste. Gli uffici comunali avevano quindi fatto slittare l'avvio del cantiere a dopo Pasqua, sia per avere il tempo di esaminare la documentazione, sia in considerazione delle abbondanti piogge che erano previste proprio negli scorsi giorni. Il comitato chiede che l'ex Pavan non sia abbattuta ma riconvertita in centro sociale e punto di aggregazione a disposizione dei cittadini e propongono la costruzione di un nuovo centro sportivo in altra sede da loro ritenuta più congrua. Presenti sul posto per monitorare la situazione alcuni vigili urbani e agenti della Polizia di Stato, a cui gli attivisti hanno nuovamente consegnato una diffida da far pervenire agli uffici competenti del comune di Trieste. Oggi è la giornata mondiale dell'autismo, a Pordenone un libro, un film e due infopoint. Sentiamo. Punti informativi nella centrale Piazzetta Cavour e al centro commerciale Meduna, che per l'occasione si colora di blu e propone laboratori di mosaico per i più piccoli a cura dell'Officina dell'Arte e porte aperte alla Fondazione Bambini e Autismo. Sono le iniziative a Pordenone per la giornata mondiale di consapevolezza sull'autismo. Davide Del Duca è direttore della Fondazione Bambini e Autismo. Negli Stati Uniti l'ultima indagine dice che sono un caso ogni 36 bambini nati. In Italia uno ogni 77, sono numeri importanti. Le persone devono assolutamente avere un abbraccio, tra virgolette, dalla società, e la società deve in qualche maniera interessarsi a questi casi. Sono persone che sono nate così e che vivranno così, però nella loro vita potranno fare delle cose molto interessanti, molto belle, e se noi li aiutiamo saremo tutti più contenti e solidali. Questa sera a Cinema Zero la proiezione del film Sul sentiero blu e del nuovo libro La valigia blu di Cinzia Raffin e Alessandra Convertini. Un invito alle persone con autismo e alle loro famiglie a mettere il naso fuori casa, perché no, anche con un viaggio. L'autrice Alessandra Convertini. Spesso il viaggio viene considerato dalle famiglie, dai caregiver di una persona autistica, una meta quasi impossibile per lo sconvolgimento delle abitudini. In realtà non solo si può, ma si deve, perché in qualche modo si donano delle esperienze alle persone anche autistiche, si danno delle opportunità che diversamente sarebbero precluse. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cosiddetta farmacia dei servizi rappresenta un'evoluzione dell'attività delle farmacie nell'ambito delle cure primarie. Ha la finalità di ampliare i servizi territoriali espletati dalle farmacie, sia per favorire la deospedalizzazione della sanità, sia per ampliare il ruolo che le farmacie devono assolvere nell'ambito del servizio sanitario. Il servizio da Roma è di Francesca Cosentino. Occhio alla Croce Verde, che segnala la presenza di una farmacia. Presto potrebbe associarsi in molti casi anche la scritta farmacia di servizi, una sorta di presidio sanitario di prossimità dove rivolgersi direttamente e più velocemente per usufruire di una serie di servizi che prima erano in capo solo alla ASL o al medico curante. Ciò grazie al disegno di legge cosiddetto semplificazioni approvato dal governo su proposta del ministro Zangrillo e che le regioni hanno accolto con favore. Oggi non c'è dubbio che c'è una carenza dei medici in medicina generale, proprio in termini di numero. Seppur in prospettiva questa carenza andrà a colmarsi, ma la presenza di rete delle farmacie sul territorio non possono che migliorare il servizio al cittadino e renderlo anche, diciamo, più agevole negli spostamenti. Penso in particolar modo alle aree interne, che rischiano in molti casi invece di essere abbandonate. Le farmacie potranno così somministrare ai maggiori di 12 anni tutti i vaccini, fornire dispositivi medici ai pazienti in assistenza domiciliare per conto di ospedali, effettuare screening su specifiche patologie e favorire persino la scelta del medico curante o del pediatra. Insomma, si va verso un rafforzamento della medicina sul territorio per alleggerire il carico sulle strutture sanitarie pubbliche e agevolare i servizi ai cittadini. Ascoltare il racconto di una storia aiuta il bambino ammalato a distrarsi e a sentire meno dolore. La biblioteca di Sara di Pordenone organizza un corso per la lettura ad alta voce per futuri volontari. Leggere storie ad alta voce a bambini e ragazzi ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale di Pordenone per donare ai giovani pazienti un momento di svago e distrazione dalla malattia. La biblioteca di Sara, associazione pordenonese che da 11 anni opera in memoria di Sara Moranduzzo, cerca nuovi volontari e volontarie e organizza un corso di formazione per la lettura ad alta voce in 4 incontri gratuiti a partire dal 5 aprile. Cristina Savi è presidente della biblioteca di Sara. Il valore della lettura lo conosciamo. La lettura ad alta voce diventa un mezzo potente, perché per un bambino che si trova ricoverato e quindi in una condizione di fragilità, sentirsi raccontare una storia, una fiaba, ha un potere di distrazione, di consolazione, aiuta anche a sentire meno dolore. Quanto è importante anche per chi lo fa? Per chi riceve è importante, per chi lo fa è impagabile. E le esperienze, i racconti che ci riportano i nostri volontari, che colgo l'occasione di ringraziare, ci fanno capire, ci testimoniano quanto può arricchire la vita dedicarsi a un'attività come questa. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. È operativa la nuova stanza per i trattamenti chemioterapici all'ospedale San Polo di Monfalcone, realizzata grazie alla sinergia tra l'associazione Dinamici e l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. La nuova stanza è solo uno dei numerosi progetti che Dinamici ha portato avanti per migliorare l'esperienza dei pazienti negli ospedali. Questo risultato rappresenta il coronamento di un lungo percorso avviato durante l'iniziativa Ottobre Rosa, che lo scorso 1 ottobre aveva visto la piazza di Monfalcone punto di partenza di una serie di iniziative culturali, musicali, artistiche e sportive, organizzate proprio da Dinamici e dalle altre associazioni che hanno sostenuto l'evento, con l'obiettivo di raggiungere importanti traguardi a sostegno della salute. Arriva dal Maine il sistema di monitoraggio che permette di identificare la cosiddetta specie ombrello per il monitoraggio, ovvero quella specie la cui individuazione consente di monitorare simultaneamente altre specie. Partirà in questo mese di aprile il progetto dell'Università di Trieste che utilizza questo sistema per la salvaguardia della fauna forestale nel Parco Naturale delle Prealpi Giulie. A coordinarlo è Alessio Mortelliti, professore associato di ecologia presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Trieste, che ce lo ha illustrato. Noi stiamo cominciando un progetto in collaborazione col Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie, focalizzato sullo sviluppo di protocolli ottimali di monitoraggio dei mammiferi. Dunque, cos'è il monitoraggio e perché questi protocolli sono ottimali? Monitorare una specie significa seguirne l'andamento nel corso del tempo, quindi capire quando stanno aumentando, ma soprattutto quando stanno diminuendo. In particolar modo quando stanno diminuendo è importante percepirlo per poter partire con delle azioni di conservazione. Questi protocolli sono ottimali perché cercheremo di sviluppare il modo più economico possibile per seguire queste specie. E come specie stiamo parlando di specie incredibilmente elusive, quale la martora, la faina, il gatto selvatico, specie che non sono facili da vedere. Basti pensare, io in 20 anni passati nei boschi ho visto il gatto selvatico solamente 3 volte. Utilizzeremo tanti metodi, tra cui le trappole fotografiche, che scattano dei video o delle foto quando l'animale passa davanti. Un aspetto particolarmente innovativo di questo progetto è che cercheremo di individuare delle specie ombrello. Una specie ombrello nel monitoraggio è una specie che, se monitorata, permette contemporaneamente di monitorare altre specie. Quindi, ad esempio, se la nostra specie ombrello è la martora o la faina, questo significa che se noi concentriamo i nostri sforzi nel monitorare la martora, contemporaneamente stiamo monitorando tantissime altre specie, quali ad esempio la faina, la puzzola, eccetera. E quindi è un modo con un elevatissimo rapporto costi-efficacia per poter seguire le specie nel corso del tempo. Zigaina 100, anatomia di un'immagine, è il titolo del programma di eventi, proiezioni, mostre, incontri, dedicato al centenario dalla nascita di uno dei più significativi artisti pittori del Novecento italiano, Giuseppe Zigaina. Si comincia questo pomeriggio con la proiezione al Teatro Pasolini di Cervignano alle 18 di un inedito ritratto filmato nel 76 dal giornalista regista della RAI Francesco Bortolini, una lunga intervista all'artista scomparso nel 2015. Zigaina 100, anatomia di un'immagine, un programma di studio e valorizzazione della sua figura non solo di pittore ma anche di intellettuale, un progetto che prevede anche l'acquisizione da parte della regione della casa del pittore a Cervignano, dove c'è ancora l'archivio e lo studio, un programma che ha come obiettivo quello di comunicare ai giovani. La storica dell'arte Vania Strukel. Noi crediamo nella grande attualità di Zigaina. Zigaina come artista e Zigaina come intellettuale. Abbiamo visto nelle immagini una straordinaria Assemblea del Cormor, no? Quel dipinto conservato a Casa Cavazzini. Io credo che per dei giovani guardare quell'opera vuol dire anche capire il valore alto che Zigaina attribuiva alla pittura. Con un quadro si può cambiare il mondo. Giuseppe Zigaina è stato tra i protagonisti del neorealismo, un artista intellettuale che ha mantenuto un costante impegno ideologico anche nel periodo più introspettivo e onirico, una figura artistica di prima grandezza anche nella scena nazionale del secondo dopoguerra. Zigaina è un grande artista, fortemente radicato nel suo territorio di origine e di elezione, ma è un artista di cultura e respiro assolutamente internazionale. Certamente si afferma come uno dei protagonisti della stagione italiana del realismo, accanto appunto a Guttuso e Pizzinato, ma dimostra immediatamente un suo percorso del tutto autonomo. Trieste, Vaciucci, GR, Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport, il calcio, si poteva e si può sempre fare di più, siamo vivi e siamo stati bravi a reagire subito al gol subito. Sappiamo che sarà una lunga maratona, così l'allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi ha commentato il pareggio 1-1 in casa del Sassuolo. Noi volevamo vincere oggi, sapendo che affrontavamo un Sassuolo in forma, un Sassuolo vivo, un Sassuolo ben diretto. Abbiamo avuto un primo tempo in controllo con 6 occasioni a memoria nitide davanti alla porta, 2 di Lovrig, 2 di Lucca, di cui una un salvataggio sulla linea, 2 di Toven. Potevamo capitalizzare meglio. Il secondo tempo abbiamo avuto meno controllo e nonostante questo abbiamo preso 2 traverse. Credo la differenza l'abbiamo fatta i cambi e quindi la sensazione di meno controllo è perché avevamo meno freschezza in campo, che è normale, i primi caldi, 9 nazionali, diversi acciacchi in settimana e quindi avevamo un po' anche le cartucce contate. Ci tenevo a fare un elogio in particolare a San Camara perché sono diverse settimane che sta facendo Ramadan, lo fa proprio perfetto al secondo e ha fatto una partita incredibile, ma mi ha chiesto fiducia e me l'ha ricambiata in pieno. A lui accompagno sia Lucca, perché ha avuto una settimana travagliata, è tornata alla nazionale, volontà, aiuto, e Bijol, perché ci porta concretezza. Il nostro giornale radio si chiude qui, da Lara Zani e Francesca Vigori che l'hanno redatto e condotto, Andrea Fontanotte e Viola Romanese che hanno curato la parte tecnica, Samantha Gon che ha collaborato in redazione, grazie della cortese attenzione, ancora una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.